Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, avremo intenzione di parlarvi di sentenze, di debiti di guerra e debiti di pace, nonché di una persona molto corretta. Poi se ce la facciamo vedremo.